Alto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. E ancora una giornata pesante per alcune banche in borsa. MPS e Banco Popolare Monte dei Paschi perde oltre il 12%, quasi il 12%, Banco Popolare il 7%, in vista di nuovi controlli della Banca Centrale Europea. Resta aperto lo scontro tra Roma e Bruxelles. Renzi, se ne facciano una ragione, l'Italia è tornata all'Europa verso l'apertura dell'indagine per aiuti di Stato sull'Ilva. A Cagliari lo scontro tra due treni della metropolitana leggera, una quarantina i feriti, forse quattro quelli gravi, ancora grande incertezza. Bullismo è il caso del tentato suicidio di una ragazzina a Pordenone, riapre il dibattito sulla legge, come avete sentito poco fa anche in Melo di Gianluca Nicoletti, l'ipotesi di una sorta di DASPO per il telefonino a scuola. In Siria, nella città di Deir az-Zor, sarebbero tutti militari le vittime dell'ISIS, e incertezza sui 400 rapiti, forse sarebbero soldati anche quelli. A Genova l'allenatore Gasperini fa i nomi dei tifosi che lo costringono a girare sotto scorta, è uno dei primi casi. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, alle notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti in apertura, come sempre, effettogiorno@radio24.it per scriverci, il 349-238-66, tanto per 6666, scusate, tanto per gli SMS quanto per WhatsApp. In apertura ancora la giornata pesantissima per le banche in borsa, o almeno per alcune banche. Il tentativo di rimbalzo di questa mattina non è andato a segno, anzi. Deborah Rosciani, buongiorno. Sì, buongiorno. Non è andato a segno per Milano. Le borse europee avevano provato a recuperare punti stamattina dopo il dato sul PIL cinese cresciuto del 6,9%. Naturalmente è un dato che è in linea con le attese, che conferma la frenata della congiuntura di quell'area. E quindi dopo questo sorta di sospiro di sollievo, le borse europee appunto sono partite con un rimbalzo che si sta mantenendo a Parigi e a Francoforte di circa 2,5 punti, mentre Milano ha avuto una mattinata molto variabile, è partita con un rialzo di 2 punti, ha bruciato tutto, è andata in negativo, adesso segna più 1,45%, ma naturalmente non la aiutano i nuovi tracolli dei titoli bancari. Monte dei Paschi in prima fila, letteralmente nel bersaglio degli investitori, meno 12%, è stata più volte sospesa per eccesso di ribasso, e dire che era partita con un tentativo di rialzo è arrivato quasi a 6 punti percentuali. Le fa compagnia il Banco Popolare, che sta perdendo il 7,6%, la Popolare dell'Emilia Romagna meno 4,43%, Unicredit meno 2,8%, quindi sono abbastanza chiari i bersagli degli speculatori, se così vogliamo definirli, nazionali ed internazionali, come ha detto ieri il presidente della Consob Vegas. Recuperano i titoli delle telecomunicazioni e del lusso, quindi questi almeno riescono a far tener botta a Piazza Affari, ma è una giornata ancora difficilissima per le banche. Simone. E grazie Deborah Rosciani per questo aggiornamento. Ovviamente con i mercati torneremo ad aggiornarvi come sempre alle 13:30. Veniamo però a fare un punto proprio su questa questione delle banche. La pressione fortissima del mercato sulle banche italiane continua. L'attacco di una violenza che non si ricorda dai tempi della crisi dello spread 4 anni e mezzo fa è continuato anche oggi a Piazza Affari su tutte le banche, e quelle considerate più deboli, il Monte dei Paschi, Carige e il Banco Popolare, pagano il prezzo più alto, continuando a bruciare decine di milioni all'ora. Un tracollo che non può trovare spiegazione se non nelle dure leggi della speculazione. Si trova un motivo, si trova una vittima e poi tutti si vende. La vittima appunto sono le banche italiane. Il motivo, a giudicare dai report e dagli umori dei trader, è la difficoltà con cui il settore, soprattutto nelle parti meno solide, sta uscendo dalla morsa dei crediti deteriorati. Una marea dilagante, 200 miliardi solo le sofferenze, che richiede sempre più capitale e comprime l'utile. La situazione non è nuova, ma il mercato, che l'anno scorso ha investito molto, sembra rimproverarla alle banche, ora che la BCE si prepara a nuovi controlli e ora che in tutta Europa vale la legge del bail-in. Se la banca è in crisi, a pagare non è lo Stato, ma azionisti e obbligazionisti, che così hanno motivo in più per allontanarsi dalle banche ritenute più deboli. Il tutto mentre a livello politico l'Italia ha i ferri corti con l'Europa. Non è difficile a questo punto immaginare che i due fatti siano collegati. Un attacco contro i titoli di Stato oggi si infrangerebbe contro i muri eretti dalla BCE. Molto meglio, quindi, colpire i titoli azionari di un settore, le banche, che resta al cuore del sistema economico. Per fortuna, i fondamentali di ieri sono gli stessi di oggi, e quello che oggi la speculazione vede come un rischio, domani potrebbe tornare a vederlo come un'opportunità. Speriamo. Marco Ferrando, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come sentite, è un'altra delle questioni che sta creando tensioni con l'Europa, non l'unica, ovviamente, gli aggiornamenti di oggi. tanto per rimarcare la posizione, il Premier affida anche a Facebook il suo pensiero. L'Italia, sempre più aperta e attrattiva per gli investimenti internazionali, con grandi aziende globali che hanno deciso di puntare sul nostro paese, come Cisco, i cui vertici ho incontrato questa mattina. Poi, per specificare a tutti coloro ai quali non fosse ancora chiaro il senso del messaggio, Renzi precisa che questa è la risposta migliore a chi, forse impaurito da questo nuovo protagonismo italiano, preferirebbe averci più deboli e marginali. Se ne facciano una ragione, l'Italia è tornata più solida e ambiziosa. Poco prima anche il presidente della Commissione, prendendola alla larga, era tornato sulle tensioni e le divisioni che agitano l'Unione. Parlando dei flussi migratori, alla plenaria di Strasburgo, Juncker ha sottolineato i rischi che oggi gravano su Schengen. Se dovesse saltare il sistema di libera circolazione, un domani ci si potrebbe chiedere il perché di una moneta unica. L'Unione Europea è minacciata alla base, ha aggiunto il presidente, e forse non ci si rende conto. Una minaccia paventata anche dal commissario europeo per i rifugiati, Avramopoulos. La deroga su Schengen da parte di alcuni paesi potrebbe segnare l'inizio della fine. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tra le tante tensioni che attraversano i rapporti tra l'Italia e l'Europa in queste ore c'è sicuramente il caso Ilva e l'avvio probabile per domani di una indagine per una possibile violazione delle normative sugli aiuti di Stato, le normative europee, in merito all'Ilva. Ci colleghiamo con Domenico Palmiotti per un punto. Domenico, buongiorno. Buongiorno Simone, sì, il fatto che la Commissione europea possa formalizzare un'inchiesta sull'Ilva per gli aiuti di Stato è una ipotesi che ormai circola da oltre un mese, perché dai primi di dicembre il commissario Vestager ha inviato al sottosegretario Gozi una lettera in cui appunto paventava questa possibilità. L'Unione europea praticamente contesta una serie di finanziamenti e di prestiti garantiti dallo Stato che all'Ilva sono stati appunto erogati lo scorso anno con una legge di marzo e adesso col decreto legge che ha approvato dalla Camera attende l'ultimo via libera dal Senato. Una manovra complessiva per oltre 1 miliardo, di cui 800 milioni soltanto finalizzati al risanamento ambientale. Qual è il punto di scontro fra l'Italia e Bruxelles? Bruxelles dice che questi sono aiuti di Stato, l'Italia ribatte dicendo che l'intervento pubblico è contemplato in casi in cui c'è da fare un'operazione di risanamento ambientale e la vicenda dell'Ilva viene vista soprattutto come una grande operazione di risanamento ambientale. Ti ringrazio, grazie a Domenico Palmiotti. Appunto, come si diceva, forse arriverà domani questa procedura di infrazione, l'apertura di questa procedura di infrazione della quale si parla da giorni. Noi cambiamo decisamente argomento adesso e passiamo a parlare della cronaca. Cagliari innanzitutto, dove c'è stato uno scontro tra due convogli della metropolitana. È ancora incerto non tanto il numero dei feriti quanto delle persone veramente gravi, insomma un bilancio non c'è ancora. Ci colleghiamo con Giuseppe Murru che si trova sul posto. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Sì, sono qua sul posto in cui è avvenuto l'incidente questa mattina. Ricordiamo cosa è successo. Erano più o meno le 8:20 quando due convogli, uno diretto verso Cagliari, l'altro invece in arrivo da Cagliari, si sono scontrati. Ci sono diversi feriti. Sta arrivando una nota ufficiale della regione Sardegna in cui si parla di 70 feriti, quindi non più i 37 di cui si parlava questa mattina, due sarebbero particolarmente gravi, una donna e uno dei conducenti dei due convogli che verserebbe in gravi condizioni e che è stato estratto grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Si sta ancora cercando di capire cosa sia successo, si parla di errore umano, sono state estratte le scatole nere, parlavamo prima qui con i responsabili dell'asse, si sta procedendo a una lettura delle scatole per capire esattamente cosa è successo, ma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io ti ringrazio nel frattempo Giuseppe Murru in diretta da Cagliari, col quale torneremo a parlare nella seconda parte della trasmissione per avere un aggiornamento. Come avete sentito, il numero di feriti è salito, si tratta di 70 persone e andremo a vedere come evolve questa mattinata e poi proveremo a collegarci anche con qualcuno dalle istituzioni, in particolare se riusciremo dall'assessorato ai trasporti della regione Sardegna, che ha un po' la competenza su quell'azienda che si occupa della metropolitana. Veniamo alle cronache dal freddo che sta investendo una parte dell'Italia in questi giorni. Ci sono tra l'altro due vittime, due clochard. Sentiamo. Neve, vento e gelo continueranno a farsi sentire per tutta la settimana, soprattutto al centro-sud, e la Protezione Civile ha emanato una nuova allerta. Ieri le regioni che hanno registrato i maggiori disagi sono state Molise ed Abruzzo. In Molise, dove la terra continua a tremare, nella notte si sono registrate altre due scosse di terremoto in provincia di Campobasso, non nevica più, ma con le temperature polari ora è il ghiaccio a creare disagi, soprattutto sulle strade. Stamani le scuole sono rimaste chiuse in una cinquantina di comuni e a Campobasso le lezioni resteranno sospese anche domani. Va invece lentamente migliorando la situazione sulle strade pugliesi, anche se resta critica nella Murgia Barese in Valle d'Itria, dove in alcuni comuni le scuole sono rimaste chiuse. In Calabria è arrivata la neve a bassa quota anche a Catanzaro, nevischio anche sulla costa ionica della Locride e sul tratto calabrese dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nord di Cosenza. Temperatura in picchiata con tramontana anche a Roma, e a soffrirne sono soprattutto i clochard degli emarginati. E nonostante il piano freddo del Campidoglio, stamani un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto in una baracca attorno alle 7.30 nella capitale. Non si esclude che il decesso possa essere stato provocato proprio dal freddo intenso della notte. Eppure a Napoli, nei pressi del centro direzionale, è stato trovato privo di vita un uomo tra i 60 e i 70 anni senza documenti. Anche lui potrebbe essere un'altra vittima del gelo. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla politica che ci porta innanzitutto a parlare del dibattito sulle unioni civili, che si fa sempre più caldo. Ci dovrebbe essere l'assemblea dei senatori del Partito Democratico che dovrebbe segnare un punto importante in questo dibattito. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. È in corso l'assemblea dei senatori Dem a Palazzo Madama sulle unioni civili. Il presidente Luigi Zanda, in una pausa, ha specificato che il governo non presenterà emendamenti e non interverrà nella discussione. Ci saranno emendamenti dei singoli senatori e non del gruppo PD. L'esito dell'aula è imprevedibile, spiega poi Zanda, per questo auspica pochi emendamenti e meditati e richiama il gruppo alla disciplina. Intanto il movimento omosessuale e transgender si prepara alla manifestazione di sabato prossimo, mentre i vescovi danno via libera al Family Day del 30 gennaio. A spingere il presidente della CEI, Angelo Bagnasco, coadiuvato dal segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, ad aderire quasi tutto il centrodestra, da ultimo il presidente della Lombardia Roberto Maroni, che manderà il gonfalone, mentre Raffaele Fitto si chiede perché insistere sulla step child adoption, ovvero sull'adozione del figlio del partner di una coppia omosessuale, attualmente previsto nel disegno di legge, ma un tema che divide e soprattutto ha il no del centrodestra. A te, Simone. E grazie Elisabetta Fiorito. In attesa delle decisioni che dovrebbero arrivare domani dal Consiglio dei Ministri sul tema della pubblica amministrazione, una decina di decreti, tra cui quello famoso che dovrebbe portare al licenziamento rapido per i dipendenti pubblici che fanno i furbetti con il cartellino, la CGA di Mestre ha diffuso i dati questa mattina, elaborati su dati INPS appunto. Gli statali si ammalano più spesso i dipendenti privati. Secondo questa stima, nel 2014 un dipendente pubblico su due, il 55% del totale per essere esatti, è rimasto a casa per malattia. Nel privato invece le assenze hanno riguardato un lavoratore su tre, il 35% del totale. La durata della malattia però è stata superiore tra i lavoratori del settore privato. Nel 2014 in media a casa 19 giorni, quelli del pubblico un giorno di assenza in meno, 17,9 ovviamente in media. Abbiamo parlato dei dati INPS, ebbene ci sono anche quelli diffusi oggi dall'INPS e che riguardano i contratti. Sentiamo. Dall'INPS arrivano segnali di ripresa sul fronte dell'occupazione. Secondo i dati diffusi dall'Osservatorio sul precariato, nei primi 11 mesi del 2015, comprendendo anche le trasformazioni di rapporti a termine e apprendisti, si sono registrate oltre 2,1 milioni di assunzioni a tempo indeterminato, a fronte di circa 1,5 milioni di cessazioni. Rispetto all'anno precedente c'è stato un saldo positivo di 510.292 posti di lavoro fissi. A fare da traino sono state le regioni del nord, in particolare Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. Nello stesso periodo sono state 1.150.000 le persone assunte con gli sgravi contributivi previsti dalla legge di stabilità. A crescere è anche l'utilizzo dei voucher destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale. Da gennaio a novembre del 2015 ne sono stati venduti oltre 102,4 milioni con un aumento del 67%. L'incremento maggiore si è registrato in Sicilia, più 97%, e in Liguria, più 85%. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. All'estero adesso sarebbero 120 tutti i soldati siriani e gli uomini morti in un'offensiva lanciata dall'ISIS a partire da sabato sui quartieri in mano ai lealisti nella città di Deir Azor, nell'est del paese. Questo è quello che sostiene l'ONG Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria, che era la stessa ONG che nei giorni scorsi aveva parlato di 300 persone uccise, tutti civili, tra le quali molte donne e bambini. Secondo sempre questa organizzazione, nei combattimenti sono morti anche 70 miliziani dell'ISIS, mentre c'è grande incertezza sulla vicenda, che vi abbiamo anche raccontato, delle 400 persone rapite dallo Stato Islamico. Sarebbero, a quanto sembra, anche in questo caso militari. Veniamo invece alla Libia, dove questa notte è stato raggiunto finalmente l'accordo per un governo di unità nazionale. Ci colleghiamo con Arturo Varvelli, che è dell'ISPI, è un ricercatore e si occupa ed è un esperto di Libia. Varvelli, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Che cosa dobbiamo aspettarci? È un accordo che le sembra che possa reggere? Purtroppo di accordi che sembravano risolutivi ne abbiamo visti parecchi da ottobre in poi, dal primo condotto da Bernardino León a quest'ultimo. Il problema sarà non tanto se reggerà questo governo, io penso che possa anche reggere, ma quale effettività, quale efficacia potrà avere nelle prossime settimane, a cominciare dal fatto se sarà capace o meno, se sarà impossibilitato o meno da prendere piede a Tripoli, cioè insediarsi a Tripoli, che rimane la capitale del paese. Se così non fosse, ci troveremmo nel rischio di non avere solamente un governo di unità nazionale, anziché averne uno, di continuare ad avere quegli altri due, quindi si sommerebbero e ne avremmo tre. Il governo di Tobruk, il Parlamento di Tobruk dovrebbe sciogliersi in 10 giorni e questo dovrebbe dare una prima indicazione, ma già i maggiori rappresentanti sia di Tobruk che di Tripoli si erano opposti a questa ipotesi, quindi in realtà se ci saranno le condizioni di sicurezza il governo potrebbe entrare a Tripoli, allora potremmo intravedere una via d'uscita da questa crisi, altrimenti risponderemo negli abissi. La ringrazio, grazie ad Arturo Varvelli dell'ISPI e di tutto questo torneremo a parlare più avanti, soprattutto sul ruolo dell'Italia. Intanto il traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. A Cagliari c'è stato lo scontro tra due treni della metropolitana leggera, sono a quanto pare i 70 i feriti, almeno due quelli gravi. Ancora una giornata difficile per alcune banche in borsa, il Monte dei Paschi perde in questo momento il 7,3%, il Banco Popolare il 6,8%, Popolare Emilia Romagna il 3,8%, positiva invece la borsa in genere. Tutto questo in vista dei nuovi controlli della Banca Centrale Europea. Resta aperto lo scontro tra Roma e Bruxelles, Renzi dice se ne facciano una ragione, l'Italia è tornata e l'Europa va verso l'apertura dell'indagine per aiuti di Stato sull'Ilva. Bullismo, il caso del tentato suicidio di una ragazzina pordenone. Non riapre il dibattito sulla legge, ipotesi di una sorta di DASPO per il telefonino a scuola. Di questo parleremo tra un attimo. Intanto apriamo questa seconda parte della trasmissione parlando di calcio, ma prima ancora di parlare della partita pur interessante di questa sera vogliamo tornare sulla vicenda dell'allenatore del Genoa. È un allenatore sotto scorta a causa dei tifosi per colpa di alcuni ultra, ebbene ha deciso di fare i nomi. C'è una squadra che riscatta il derby perso con 6 punti e 6 gol in 2 partite senza subirne, ma c'è una frangia dei suoi tifosi che non si accontenta, vorrebbe di più. Anzi, continua a giocare una partita a sé, quella contro la società, l'allenatore e in fondo la maggioranza degli altri supporters. Non può succedere che a Genova con il Genoa, squadra di passione e di sofferenza, un passato remoto glorioso e tutto il resto del tempo un po' in salita. Striscioni contro il presidente Preziosi e l'allenatore Gasperini esposti posti a carattere cubitali. Un ben servito un po' squadrista offerto già al derby e ribadito domenica scorsa contro il Palermo. Gasperini, mister di coraggio tattico in campo e psicologico fuori, ha preferito seguire la sua indole ed è andato all'attacco, facendo nomi e cognomi dei leader della gradinata che non gli vogliono bene. Tra loro personaggi già ben noti alle cronache cittadine per vari episodi. La tifoseria è spaccata e in difesa di Gasperini è sceso in campo anche un sindacato di polizia che da tempo denuncia lo strapotere di certi tifosi. Insomma, cose da Genoa. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Veniamo al calcio giocato invece, perché stasera c'è quella che è decisamente una bella partita per la Coppa Italia. Carlo Genta, ciao. Ciao Simone, ribadisco l'intenzione di farmi fare una maglietta, io sto con Gasperini, ma questa è un'altra storia. Stasera al San Paolo si gioca 20:45, questo quarto di finale di Coppa Italia, dopo che ieri sera abbiamo visto l'ennesima sorpresa con l'Alessandria che ha battuto lo Spezia e andrà in semifinale con il Milan in una gara ricca di suggestioni nella persona del simbolo del Milan, Gianni Rivera, che iniziò con l'Alessandria e poi giocò tutta la carriera con il Milan. Ma stasera al San Paolo, appunto, Napoli-Inter in campionato finì 2-1, il Napoli è primo in classifica, l'Inter sta stentando in campionato, sarà una gara molto interessante anche per capire diverse cose proprio in prospettiva di lotta per lo scudetto. Il Napoli presenta alcune fa un po' di turnover, giocherà Chiriches al centro della difesa, giocherà Maggio sulla destra, David Lopez al centrocampo al posto di Hamsik, quindi Valdifiore al posto di Jorginho, sarà al suo posto invece Higuain, affiancato da Martens e Caleon. Meno turnover per l'Inter, se non importa, con Carrizo, che quindi è designato per questa partita, Nagatomo e Juan Jesus occuperanno le fasce, per il resto è grosso modo l'Inter titolare con Miranda e Murillo centrali, Medel, Condombia e Melo a centrocampo, gli Aici, Cardi e Perisic in attacco, Simone. E grazie Carlo, ne riparlerete immagino anche di questo in tutti i convocati a partire dalle 14. Noi torniamo su una vicenda di cronaca che abbiamo affrontato ieri, il caso della ragazza che a Pordenone si è lanciata dalla finestra di casa sua lasciando un messaggio ai suoi compagni di classe, dicendo, ai suoi compagni di scuola, dicendo speriamo che siate contenti. Ovviamente non è il caso, per così dire, di entrare nel dettaglio di che cosa sia capitato ad una ragazza di quest'età e che la spinga a fare un gesto di questo genere. Effettivamente però tutto questo rilancia il dibattito sul bullismo, in particolare sul cosiddetto cyberbullismo. Ne vogliamo parlare con Giovanni Bocciartieri, che è un sociologo dei nuovi media, insegna a Bologna all'Università di Urbino ed è tra l'altro stato audito ieri in commissione proprio su questo tema, su questo DDL del quale si parla in queste ore. Un DDL nel quale sarebbe contenuta l'idea di una sorta di DASPO per i telefonini, ossia l'impossibilità di portarli a scuola. Bocciartieri, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, qual è la soluzione, se ne esiste una? Ovviamente è molto difficile dare delle soluzioni unitarie. Diciamo che nelle linee di tendenza di cui si sta parlando ce ne sono fondamentalmente due. Una molto più normativa e repressiva, l'altra di tipo educativo. Allora, dal mio punto di vista, le soluzioni tecnologiche o comunque tecnologicamente determinate, cioè che lavorano sulla limitazione delle tecnologie, possono essere delle soluzioni palliativo a fronte invece della necessità educativa sia all'uso stesso delle tecnologie, sia alla consapevolezza nella comunicazione, in particolare quella digitale, visto che parliamo di cyberbullismo e parliamo di minori, cioè di un'età molto sensibile, in crescita e anche con un bisogno espressivo di problematiche legate proprio alla propria educazione emotiva, ad esempio, che rende problematico il tutto. Bocciartieri, giusto per essere chiari, secondo lei una soluzione tecnologica vera e propria a questo problema non esiste? Non esiste il DASPO per i telefonini a scuola, è di fatto per alcune aree, penso appunto a quelle minorili, pensiamo per esempio alle scuole come le scuole medie, eccetera, esiste già di fatto, nel senso che vengono sottratti all'ingresso a scuola, restituiti a fine lezione oppure durante le pause come quella della merenda, ma non limitano un uso quotidiano anche del gruppo di pari. È inutile negarci che, con la tua classe comunque ti stai anche quando non sei a scuola, ad esempio sul gruppo di WhatsApp, e le dinamiche, le stesse dinamiche, come dire, tribali della classe possono essere riprodotte attraverso le tecnologie in altri ambienti che sono quelli digitali, e i sistemi di messaggistica istantanea, abbiamo visto nelle ricerche, sono uno di quei luoghi in cui si producono inclusioni ed esclusioni delle persone che ad esempio possono ferire moltissimo. La ringrazio, grazie a Giovanni Boccia Artieri, che insegna a Bologna e ad Urbino, un sociologo dei nuovi media, e come avete sentito, come vi abbiamo raccontato, è stato anche in Parlamento a raccontare qual è la sua opinione su questo tema. Saluto Mauro Coni, che è assessore alla mobilità del Comune di Cagliari. Buongiorno assessore, benvenuto. Buongiorno. Allora, ci conferma innanzitutto che in questo scontro del quale abbiamo raccontato nei nostri titoli e all'inizio della nostra trasmissione, tra due convogli della metropolitana leggera, i feriti sono 70 e ci sono due persone gravi? No, i numeri sono leggermente inferiori, si parla di 42 feriti con 3 con codice rosso, in questo momento sono in corso gli accertamenti e insomma, speriamo che siano meno rilevanti i feriti di quello che in un primo momento sono a fare. Non c'è, da quel che voi sappiate, nessuno in pericolo di vita al momento? No, non c'è nessuno in pericolo di vita, quindi credo che siano in questo momento negli 3 ospedali in cui sono ricoverati facendo gli accertamenti, e quindi avremo maggiori notizie ovviamente più avanti. Ovviamente più avanti. Assessore, che cosa è successo? Si è riuscito a capire qualcosa? Vi siete già fatti un'idea oppure no? No, le idee ancora non sono state fatte, non sono precise. Ci sono le indagini in corso, erano presenti tutti gli organi di polizia che stanno facendo gli accertamenti. I convogli hanno avuto uno scontro frontale. In quella tratta la linea è a unico binario e gli scambi tra i convogli avvengono in corrispondenza delle fermate. Fatto sta che uno dei due treni non doveva essere in linea e bisogna accertare esattamente le dinamiche e insomma, le modalità e le cause. Che voi sappiate, questi scambi sono affidati a una macchina, cioè sono automatici o perché all'inizio stamattina si è parlato anche di un errore umano? Ma guardi, non mi voglio sbilanciare, troppo presto per fare ipotesi. Nei prossimi giorni gli inquirenti ci sapranno. La ringrazio, grazie a Mauro Coni, assessore alla mobilità del Comune di Cagliari, per questo aggiornamento, ovviamente per quello che ci può dire in questi minuti. Vediamo se siamo in grado di collegarci con Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore. Gerardo, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Ancora una volta a parlare di Libia. Poco fa abbiamo fatto una chiacchierata con Arturo Varvelli dell'ISPI, più che altro sulle incognite da un punto di vista strettamente libico. Quello che voglio chiedere a te sono le incognite per noi, paese particolarmente interessato ai destini della Libia per una serie di ragioni economiche, ma non solamente economiche. Che fase si apre adesso con la formazione del governo di unità nazionale? Gerardo. Direi la fase più delicata, dove l'Italia potrebbe giocare un grande ruolo. Nell'incontro del 15 dicembre, che poi ha dato il via all'accordo di Skhirat, che poi è stato il compromesso che ha portato alla formazione del governo, già l'Italia ha creato in UCE questo gruppo di contatto. Anche oggi alla Farnesina si stanno proprio in questi momenti riunendo gli alti funzionari, che significa il Consiglio presidenziale più i rappresentanti di organismi internazionali e paesi, 21 in tutti, che quindi creano un po' l'embrione di quello che potrà essere un po' il Libyan Talks romani, come i Syrian Talks di Vienna. Che cosa può succedere? Può succedere che ovviamente adesso nei prossimi, entro la fine del mese, come si sa, il governo, il Parlamento di Tobruk, che è quello l'unico riconosciuto internazionalmente, dovrà dare il suo assenso, dovrà votare sulla formazione di questo governo. Che cosa può succedere? Può succedere che non ci siano i numeri. Allora in quel caso le Nazioni Unite potrebbero, come dire, chiedere un secondo tentativo. Il secondo problema, nel caso in cui si riuscirà a trovare l'accordo parlamentare, è la sicurezza, cioè l'insediamento di un governo legittimo a Tripoli. In quel caso, e a questo sta lavorando il generale Paolo Serra, italiano, consigliere militare dell'inviato dell'ONU Martin Kobler e sta cercando di trovare, come dire, la quadra tra le milizie per dare una, in qualche modo una prospettiva a queste milizie e trasformarle in un esercito regolare. L'Italia è candidata a guidare una coalizione internazionale nel momento in cui il governo legittimo chiederà l'aiuto internazionale per fare cosa? Per innanzitutto lottare contro le infiltrazioni terroristiche dell'ISIS e per la stabilizzazione. Sotto questo aspetto poi si creerà il problema che cosa dal punto di vista militare potrà fare l'Italia, perché a questo punto, come dire, da un lato noi non partecipiamo per esempio ai raid aerei in Iraq e in Siria, ma lì forse qualcosa di più dovremmo fare. Dovremmo fare, evidentemente, anche perché Berlino nei giorni scorsi ha dato la sua disponibilità di fatto ad azioni aeree. Io ti ringrazio, grazie a Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore per questa analisi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a risentire che cosa succede sui mercati. Dico subito che la situazione è parzialmente migliorata, almeno rispetto a mezz'ora fa, soprattutto per le banche e i mercati sono complessivamente positivi. Nella seconda parte della trasmissione poi torneremo ad occuparci di Cagliari per avere gli aggiornamenti appunto dal luogo dove è avvenuto l'incidente, e sentiremo una storia che arriva da Genova, dove due bambini sono stati tolti ai genitori. Perché? Perché i genitori litigavano troppo a casa, una decisione che sicuramente farà discutere. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. A Cagliari, grande incertezza sul numero di feriti dopo lo scontro tra due convogli della metro leggera. Secondo alcune fonti sarebbero una settantina. L'assessore di Cagliari, che avete sentito poco fa in onda, ci ha detto che sono circa 40, sono due le persone gravi. Il caso Renault, potrebbero essere ricavate fino a 700.000 auto per i controlli dopo le differenze che si sono trovate tra le emissioni dichiarate in omologazione e quelle effettive, quello che sostiene il quotidiano L'Eseco. Resta aperto lo scontro tra Roma e Bruxelles. Renzi dice: se ne facciano una ragione, l'Italia è tornata e l'Europa va verso l'apertura dell'indagine per aiuti di Stato sull'Ilva. In Siria, nella città di Deir ez-Zor, sarebbero tutti militari le vittime dell'ISIS. Incertezza sui 400 rapiti, forse sarebbero soldati anche quelli. Alla borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo e siamo di nuovo in collegamento con Giuseppe Murru, che a Cagliari si trova nel luogo dove c'è stato uno scontro tra due convogli della metropolitana leggera. Come avete sentito, come vi abbiamo raccontato e ne avete avuto un'idea plastica, non è ancora chiaro quale sia il numero di feriti, perché alcune fonti parlano di 70, l'assessore alla mobilità del comune di Cagliari poco fa ci ha detto che sono poco più di una quarantina. Giuseppe, raccontaci qualcosa da là, eccoci. In effetti c'è un po' un classico balletto dei numeri. Proprio in questo momento è stato diramato un comunicato stampa dell'assessorato e dei trasporti regionale, che parla invece di appunto una settantina di persone complessivamente ferite a vario titolo e trasportate o nell'ospedale o nei pronto soccorso della città. Di questi un numero fortunatamente più contenuto diciamo è stato ferito in modo un po' più serio, e come abbiamo detto anche nei precedenti collegamenti, due di questi sono invece feriti in modo piuttosto grave, e in particolar modo uno dei due conducenti. E qua in questo momento i vigili del fuoco hanno provveduto a separare le due convogli, che erano letteralmente incastrati nell'impatto, per quanto non violentissimo fortunatamente si sono letteralmente incastrati, accartocciati, e ora è stato proprio provveduto alla separazione. E quindi in questo momento peraltro è difficilissimo avvicinare chiunque dai vigili del fuoco a tutti gli altri presenti, proprio perché sono impegnatissimi in queste operazioni abbastanza delicate. Benissimo, io ti ringrazio per questo ulteriore aggiornamento, grazie a Giuseppe Murru. Noi ci spostiamo a Genova adesso per parlare di una decisione di un tribunale che farà sicuramente discutere. Litigi continui, mai sfociati in violenza fisica, ma sempre sopra i limiti. È la storia di una coppia genovese che ha continuato a convivere nonostante il rapporto fosse finito, forse rimasti assieme per i figli di 7-8 anni, bambini mai picchiati, ma che hanno assistito anno dopo anno a violenze verbali e insulti. Per questa ragione la coppia è finita sotto inchiesta della Procura di Genova e i bambini dati in affido a una comunità. Stando a quanto raccontano gli inquirenti, la situazione era estremamente deteriorata e quella subita dai due fratellini è una classica forma di violenza assistita, i cui danni sono più gravi, forse delle botte, come spiega Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Vedere una mamma e un papà che urlano, che si fanno male con le parole in modo violento, è molto molto traumatizzante per un bambino. Significa che le tue fonti di protezione e sicurezza sono in realtà entrate in guerra e un bambino rimane come congelato. Sono adulti spaventanti per un bambino e nessun bambino quindi quando ha un problema si avvicinerà a degli adulti spaventanti perché non sono adulti disponibili a poterlo aiutare nel momento del bisogno. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un aggiornamento per quanto riguarda la vicenda delle banche appena battuto dalle agenzie e riguarda delle dichiarazioni di un portavoce della Banca Centrale Europea. La richiesta di informazioni aggiuntive sui crediti deteriorati avanzata alle banche italiane che sta generando questi problemi anche in borsa è una pratica di supervisione standard, specificano dalla Banca Centrale Europea, e ha riguardato anche diverse altre banche della zona euro. Veniamo alla politica e con l'analisi di Daniele Biacchesi che oggi ci parla della corsa per la carica di primo cittadino a Roma. La politica romana intende voltare la pagina di Mafia Capitale, lasciandosi alle spalle gli anni bui delle infiltrazioni mafiose nelle attività amministrative del Campidoglio e le polemiche intorno alla cacciata dell'ex sindaco Ignazio Marino da parte del Partito Democratico. I sondaggi, per quello che valgono, da molti mesi danno il Movimento 5 Stelle in testa alle amministrative. I numeri dicono che potrebbero vincere quasi con qualsiasi candidato in campo. Fino a pochi giorni fa la situazione almeno era questa. Ora il PD schiera un uomo per bene, il radicale Roberto Giachetti, amico di Renzi, non ostile ad alcuni temi cari al 5 Stelle. Con la sua candidatura si entra dunque nel vivo delle prossime primarie. Marino si potrebbe presentare con una sua lista. Sella ha già detto che non voterà mai Giachetti e intende convergere sulla figura di Stefano Fassina. Poi c'è l'incognita centrodestra, dove l'ultimo nome che circola nell'ambiente berlusconiano è quello di Bertolaso. La situazione pare dunque più fluida e dall'esito meno scontato. Dal 12 al 16 maggio a Torino il Salone del Libro è stato presentato questa mattina. Il nodo più difficile di questa edizione del Salone del Libro era sicuramente quello del paese ospite. Alla fine della scorsa edizione era stata annunciata l'Arabia Saudita, scatenando un vespaio. Soprattutto quando il paese aveva condannato a morte un ventenne per aver partecipato ad una manifestazione contro il regime quando era ancora minorenne. Il CDA della fondazione, che organizza il Salone del Libro, aveva così ritirato l'invito come ospite d'onore. Riyadh aveva reagito a sua volta, chiedendo all'Italia di non interferire nei suoi affari interni. Insomma, una patata bollente, alla quale si è aggiunto negli ultimi tempi lo scandalo delle fatture gonfiate. Ora il Salone del Libro di Torino riparte da zero. Nuova presidente Giovanna Milella, mentre richiamato a gran voce come direttore editoriale Ernesto Ferrero, la vera anima della manifestazione da tanti anni e responsabile del programma. Per superare l'impasse Arabia Saudita si è deciso di non avere un paese ospite, ma di dedicare spazio a tutta la letteratura araba, dal Marocco all'Iraq. Il tema annunciato oggi è visioni, non utopie, ma la capacità di darsi progetti realizzabili. Visioni intese anche come interazione rafforzata fra cultura scientifica e umanistica. La grande novità di quest'anno riguarda invece i finanziamenti in crisi negli ultimi anni. Intesa San Paolo e Unicredit, da semplici sponsor, sono diventati soci a tutti gli effetti, garantendo così una solidità economica. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il traffico, America 24, ci risentiamo alla fine per i saluti.